24 mattino. Sono le 8:17 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci qua. Sì, di nuovo. Buona giornata a buona tutti. Giornata. Buona giornata, è anche una bella giornata davvero. Dal punto di vista meteorologico, intendo. A Milano, chissà, a Bari, in ogni caso. Parliamo di carburanti, perché lo abbiamo... Non ridere. Il siparietto di stamattina. Parliamo di carburanti perché abbiamo detto l'inflazione è ferma, invece i carburanti hanno ripreso. Ci risiamo, Alessandro, insomma, il problema è sempre quello. Ci risiamo con la rabbia dei consumatori. Ci risiamo con la rabbia dei consumatori, perché non appena le quotazioni internazionali del greggio riprendono a salire, ieri a New York il petrolio ha flirtato con i $50 e insomma i prezzi alla pompa si adeguano al rialzo immediatamente, mentre il movimento al contrario, come sapete, è sempre rigidissimo. Se il petrolio, le quotazioni internazionali scendono, il prezzo alla pompa si adegua, ma con una lentezza che è veramente insomma insopportabile. Allora cerchiamo di esaminare di nuovo questa dinamica e soprattutto di guardarci un po' intorno per capire quali sono le opportunità per fare in modo che ogni volta che si va a fare il pieno di benzina non sia questa operazione sempre il consueto salasso per le nostre tasche. Ovviamente mi riferisco soprattutto a coloro che per lavoro viaggiano molto, lavorano nel settore del trasporto, e ovviamente su queste persone, su queste figure professionali, il peso del pieno di benzina è un po' più insopportabile. Allora ringrazio e saluto di essere con noi Luca Squeri, presidente della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali di Carburanti, l'associazione aderente a Confcommercio. Squeri, buongiorno. Buongiorno a voi. Anche stamattina devi rimettere il consueto disco che spiega la motivazione per cui la dinamica è sempre la stessa. Le quotazioni del petrolio salgono, la pompa di benzina si adegua immediatamente, e in Italia peraltro c'è anche una dinamica particolare rispetto all'Europa che adesso spiegheremo, mentre il movimento al contrario è invece inesorabilmente sempre più lento. Squeri, ce lo rispiega ancora una volta il motivo di questo? Io ancora una volta devo fare la parte di quello che, non dico che smentisco, ma devo puntualizzare, non è propriamente così. Intanto, guardate, il prezzo della benzina rispetto per esempio una settimana fa è diminuito di 20 millesimi, il prezzo del gasolio è rimasto invariato. Diciamo che spesso ci si induce a queste considerazioni non esattamente puntuali perché si guarda il petrolio, in realtà noi bisogna guardare le quotazioni del prodotto finito, cioè benzina e gasolio, perché spesso mentre il petrolio per esempio aumenta, i prodotti finiti diminuiscono e viceversa, per cui e poi c'è anche il discorso della valuta. Bisogna dire che questi ragionamenti non si possono fare nel breve periodo, si deve vedere in un medio periodo di circa un mese, e qui l'andamento è diciamo armonico. Tenete conto, vi faccio un esempio comparativo in modo tale da legittimare quello che vi dico, cioè se per quanto riguarda l'andamento appunto dei dati ISA che dicono un aumento del prezzo della benzina in Italia dell'1,7%, del 2,4% sulla benzina e del 0,5% sul gasolio, ci sono 20 paesi europei che hanno avuto diciamo incrementi superiori a quello italiano. Per cui diciamo che ripeto, queste dinamiche nel breve periodo non sono così. Però noi viaggiavamo con un gap, con un differenziale svantaggioso a noi in precedenza, dottor Squeri, se non ricordo male. Assolutamente sì, noi abbiamo un gap industriale maggiore rispetto all'Europa, questo è indubbio, dovuto al fatto che da noi c'è una rete maggiormente capillare e da noi esiste il servizio che in Europa non esiste. Cioè praticamente la benzina servita, non il self-service, non è un sistema distributivo basato esclusivamente sul self-service, quindi il sistema del servito esiste solamente in Italia. Sa che questo non lo sapevo, non avevo mai fatto caso a questo aspetto. È così. Questo quindi è anche un problema appunto legato al sistema distributivo. In ogni caso, anche se lei un po' così contesta questo rilievo giornalistico che viene dato all'aumento del prezzo della benzina, le modalità con cui questo si trasferisce sui prezzi alla pompa e quindi al distributore, in ogni caso i consumatori si guardano intorno per capire se ci sono delle opportunità di risparmio nel momento in cui devono fare il pieno. Il Codacons, ne avevamo parlato con questa associazione dei consumatori in passato, suggerisce generalmente per esempio di fare rifornimento ai cosiddetti distributori indipendenti, le pompe bianche che non appartengono ai grandi marchi e applicano listini inferiori rispetto ai distributori abituali. E poi c'è anche un'altra alternativa che sta prendendo campo da qualche tempo a questa parte, adesso capiremo se con successo o meno, e sono i distributori che vengono allestiti presso i centri e la grande distribuzione. Allora saluto Giovanni Mazza, responsabile carburanti di Auchan. Mazza, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, quanti siete riusciti ad allestirne negli ultimi anni nel nostro paese? Perché comunque questa è un'esperienza piuttosto recente per quello che riguarda l'Italia. Sì, abbiamo cominciato nel 2003, oggi Auchan ha 26 distributori in funzione. Il 27esimo aprirà nei prossimi giorni ad Ancona e sarà il più bello di Ancona, naturalmente. Beh, direi anche perché è la mia città, per cui insomma non posso che rafforzare questo messaggio, a parte gli scherzi. Quindi 26. Esattamente. È stato un lavoro difficile, dottor Mazza, perché ci hanno spiegato che per esempio le legislazioni regionali non rendono la vita molto facile alle grandi aziende, appunto, che intendono praticare questa via, quindi allestire distributori di benzina presso i centri commerciali. È stato difficilissimo, bisogna dire però che da settembre di quest'anno, sotto pressione dell'Unione Europea, il governo italiano ha emanato una nuova legge che sostanzialmente costringe le regioni, che sono poi i veri legislatori, ad essere più liberali su questa materia. E con il trantano italiano, ma le cose si stanno effettivamente muovendo in senso, non dico liberista, ma più liberista, per cui nel futuro la vediamo più rosea. Mm-hmm. Avevo letto da qualche parte che il vostro gruppo era riuscito ad avviare la vendita di carburante diesel nelle vostre stazioni di servizio a meno di un euro nel periodo di dicembre, una soglia che per quello che riguarda il gasolio non si vedeva da fine 2004. Sì, mi fa piacere che lo racconti, perché proprio per il fatto che il mercato è rigido, no? Intorno al 10 dicembre abbiamo detto, ma forse riusciamo a sfondare sto muro dell'euro. Era un po' che lo guardavamo, i prezzi stavano da un'indicazione in discesa, l'abbiamo fatto, all'epoca erano 21, e per primi in Italia abbiamo sfondato il muro dell'euro dicendolo, vendiamo la benzina e il gasolio. Lo state mantenendo questo livello, dottor Mazza? No, siamo scesi. Siete scesi ancora. Oggi vendiamo 96 centesimi il gasolio. E quindi diciamo questa promessa l'abbiamo mantenuta. La nostra promessa è: cerchiamo di vendere ai nostri clienti gasolio e benzina al prezzo più basso possibile verso il mercato. No, sa perché gliel'ho chiesto adesso, tra l'altro poi magari affronteremo anche il nodo, non so se ci riesco perché i minuti a nostra disposizione non sono molti, il mattino, ma anche la qualità della benzina che viene venduta poi in questi centri, che non una benzina che non appartiene alla grande insegna, e qualcuno addirittura a volte ha il dubbio che non sia una benzina, non sia un carburante della medesima qualità. Vorrei rassicurare, magari anche con l'aiuto di Squeri, che non so con che visione ha rispetto a questo fenomeno, però posso rassicurare quantomeno i consumatori su questo. Squeri, mi può aiutare lei su questo? No, la qualità è standard, al di là dei prodotti speciali che le singole compagnie vendono. Devo dire che Auchan vende la benzina come prodotto per le allodole, no? Nel senso, addirittura lo vende a sottocosto, che non so se si può definire una, diciamo, attività sleale, scorretta, ma sicuramente è un'attività che non può essere presa ad esempio, perché vorrebbe dire mandare all'aria un intero settore se tutti dovessero fare come Auchan. Chiaramente lei può farlo, perché attirando le allodole sul proprio punto poi può vendere. Infatti tutti il tema è quello, prodotti, è che una famiglia il sabato va a fare la spesa, la pasta e il pane ci si rifà, insomma. Ah, però adesso a Mazza glielo chiediamo, però il tema è anche quello, è in genere ottimizzare, no? Anche il rifornimento di benzina, nel senso che una famiglia il sabato va a fare la spesa e contestualmente magari si fa il pieno per tutta la settimana e trova anche la sua convenienza. Mazza, c'è lei, sì. Sicuramente, dottor Squeri, noi non vediamo mai sotto costo e quindi vendiamo con dei margini contenuti, ma sempre con dei margini. Dopodiché questo ragionamento dello specchietto, certo, in Auchan abbiamo tante di queste cose, il Dixan, l'olio, la pasta Barilla, tutto quello che volete. Tutti i prodotti cerchiamo di venderli a un prezzo interessante per far venire i clienti, quindi, anche la benzina, naturalmente. Anche la benzina, rinunciando evidentemente a certi margini, ma è chiaro che poi i canali tradizionali vedono con un po' di difficoltà e qualche sospetto a volte anche queste pratiche. Però insomma non abbiamo il tempo di esplorare tutto questo. Square, in 15 secondi, in ogni caso, adesso al di là del suo commento su Auchan, ci dà un suggerimento per risparmiare sul piano di benzina? Guardi, la concorrenza ormai è estesa e il consumatore può scegliere, ci sono impianti, grandi distribuzioni, pompe bianche, compagnie tradizionali che offrono sconti. In Italia il cliente può scegliere tra un prezzo scontato piuttosto che essere servito e chiaramente pagare un po' di più la benzina. Grazie, grazie a Luca Squeri e Giovanni Mazza per essere stati con noi. Alessandro, ti ho rubato 20 secondi come al solito. Sì, e tra poco c'è Salvadanaio. Alle 12 mi occupo del credito alle piccole e medie imprese e agli artigiani, stretta o meno. Benissimo. Parleremo anche dell'iniziativa di ieri dell'incontro tra Berlusconi e Marcegaglia. Intanto tra i vari ovviamente consumatori arrabbiati, a Bari c'è il sole. Ci hanno fatto Hai sapere. Visto? A Venezia nebbia. 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle ultime notizie. Su alcuni punti abbiamo visto soldi veri, altri arriveranno, così la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia al termine dell'incontro col premier Berlusconi. Il governo ha assicurato un fondo di garanzie per le piccole e medie imprese da 1,3 miliardi di euro, 5 miliardi per la ricerca verranno dalla Cassa Depositi e Prestiti. E dovrebbe slittare di una settimana la presentazione in Consiglio dei Ministri del Piano Casa annunciato per venerdì prossimo. Berlusconi ha illustrato il progetto al Presidente della Repubblica Napolitano, ha ascoltato le sue osservazioni e si è riservato di approfondire le questioni più delicate. Castrazione chimica per i condannati per violenza sessuale che chiedono gli arresti domiciliari. La proposta è della Lega, inserita nel decreto legge sulle ronde. Il PD parla di barbarie e si appella al Presidente della Camera Fini per bloccare l'emendamento. Infine, con lo sport, le scuderie di Formula 1 sono sul piede di guerra dopo l'annuncio del cambiamento di regole deciso dalla federazione. Dal prossimo anno, come sapete, il mondiale piloti non andrà a chi otterrà più punti, ma a chi vincerà più gran premi. Il presidente della Ferrari Montezemolo ha espresso delusione e preoccupazione per una decisione che rischia di stravolgere l'essenza della Formula 1. È il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore. C'è la crisi, ma ci sono anche 50.000 posti di artigiano che nessuno vuole. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. La Spagna ha raddoppiato il suo tasso di disoccupazione in 5 mesi. La Confindustria prevede che in Italia quest'anno perderanno il posto di lavoro 600.000 persone. Eppure può accadere che le imprese artigiane, e ne parliamo oggi sul Sole, in Job 24, cerchino lavoratori qualificati senza trovarli. 50.000 posti disponibili dai saldatori ai carpentieri, soprattutto nelle imprese artigiane più giovani e dinamiche. È colpa di una formazione inadeguata, della scarsa disponibilità a trasferirsi dei giovani e di molti pregiudizi, del tutto infondati, sull'impresa artigiana. E poi anche della modesta considerazione che la nostra società mostra di avere nei confronti del lavoro manuale, nonostante l'artigianato sia un ingrediente insostituibile del Made in Italy. Il lavoro manuale è spesso più nobile di quello intellettuale, non di rado fonte di frustrazioni e sottoimpiego. Buona giornata. Grazie, buona giornata direttore, a domani alla stessa ora per l'asterisco. Sono le 8:35 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Io saluto il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, buongiorno, ben ritrovato Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, la notizia sulle candidature europee di ieri è la candidatura del magistrato Luigi De Magistris. Il più graffiante oggi è stato Libero, scrive: il PM ammazza Prodi, si candida alle europee con la lista di Tonino, insomma con l'Italia dei Valori. Lei che replica? L'Italia dei Valori ha deciso di fare un salto di qualità nelle proprie candidature, mettendo a disposizione la propria lista di professionalità, di personalità che hanno una storia da raccontare, un'Italia migliore da portare in Europa. Per cui rinuncia a candidature di partito, sostanzialmente ne mette solo alcune, e ha messo a disposizione, come ci ha chiesto Camilleri peraltro, ha messo a disposizione la propria lista per candidature di qualità. Oggi annunciamo la candidatura, oltre che di De Magistris, di una persona che ha fatto e fa informazione. Chi? E di una lo annunceremo alle 11. Accidenti. Alle 11 faremo questa conferenza stampa, quindi no, abbiamo bisogno di farlo per una serie di rispetto per le persone, preferisco che siano loro alle 11. Allora mi dica sì o no. Settimana prossima invece prenderemo, diciamo così, l'area della solidarietà e della pace. Avremo 3 candidati che si sono impegnati in questa area. La settimana successiva il lavoro e l'occupazione, poi ancora la ricerca e la salute e così via, cioè persone di qualità che hanno un curriculum, una storia, una capacità di poter rappresentare la migliore Italia in Europa. Allora tra poco ci arrivo, le faccio il nome, lei mi dica sì, no, forse, Marco Travaglio. No, io non faccio nome. Le posso assicurare comunque che Marco Travaglio è una persona che la sta facendo giornalismo attivo in tutti i sensi e quindi io lo rispetto e non voglio sfruttare. Lo sapremo alle 11. Senta, ma De Magistris si deve dimettere dalla magistratura come dicono molti? Le posso assicurare che De Magistris quando subito dopo le elezioni farà proprio questo, proprio perché anche lui come me pensa che la strada sia una strada senza ritorno, quello che una volta si passa in politica da quando da magistrato si passa in politica. L'ho fatto io, lo farà anche lui. Anche lui con l'amarezza nel cuore, perché faceva e ha fatto un lavoro che di cui era, dava tutto se stesso, e come si dice, quando uno fa il proprio dovere ne deve pagare le conseguenze. In Italia purtroppo questa è l'amarezza, perché alla fine in tutti questi anni è venuto fuori che la colpa è che di chi scopre i delinquenti, non di chi delinque. Ha sentito Mastella che dice ora capisco tante cose dalla candidatura? No, ripeto, io credo che Mastella offenda la sua intelligenza se pensa davvero che De Magistris l'anno scorso ha messo in piedi l'inchiesta Why Not per poi candidarsi quest'anno all'Europea. Sì. Tutto pensava, così come tutto pensavo io, di fare politica quando facevamo i magistrati. Adesso abbiamo lasciato la politica perché costretti da un potere assurdo che ogni volta, lei sa che, le dico solo questo, guarda, lei sa che in questi giorni, in quel che si chiama il decreto anti-intercettazione, c'è una norma che non c'entra niente con l'intercettazione, dice in sostanza che ogni imputato si può scegliere il suo giudice, il suo magistrato, se non gli piace basta segnalarla a un'altra procura e siccome c'è la segnalazione il magistrato si deve astenere dall'indagine o deve essere ricusato, cioè vuol dire che siamo arrivati all'assurdo che gli imputati, specialmente quelli che sono in grado di pagare il giusto avvocato, che è il cavilloso avvocato, riescono sempre a trovare un codicillo, una finestra aperta per cambiare giudice fino a quando arriva la prescrizione o arriva il giudice cieco. A questa norma io non... O meglio, cecato. Sì, non ne ho contezza di questa norma. Però, allora, insomma, ma non ne ha contezza, perché io la ringrazio invece, ringrazio in questo momento la sua trasmissione. Perché questa è l'amarezza, io credo che debba avere l'italiano vero. Una norma di questo genere, che è l'articolo 1 del decreto anti-intercettazione, dice proprio questo, basta che il magistrato risulti iscritto nel registro di indagato a seguito di denuncia del proprio imputato e deve astenersi o deve essere sostituito dall'indagine. Lo dice l'articolo 1, è una gravità inaudita. Noi dell'Italia dei Valori in Parlamento l'abbiamo denunciato e denunciato più volte e finalmente Rai 1, grazie a lei, lo dice. Siamo su Radio 24, ma va bene lo stesso. Radio 24. Sì. Senta Di Pietro, perché lei è con Tremonti per il controllo da parte dei prefetti? Ha detto, è una cosa giusta, il controllo dei prefetti delle banche. Il governatore Draghi ha detto, la politica non deve entrare nelle banche. Non ho detto e non intendo mettermi a fianco di Tremonti in questa battaglia. Ho detto e ribadisco, non c'ho bisogno di Tremonti per dirlo, semmai è lui che ha detto quello che ho detto io e che andiamo dicendo da anni, io, Lanutti, Italia Valori, l'Adusbef, e cioè che la Banca d'Italia è una realtà i cui soci sono le singole banche, i controllati che hanno come controllore diciamo così, una realtà di cui sono soci, di cui sono proprietari. È un po' come dire, appunto, traslando in materia giudiziaria, che l'imputato si nomina il suo giudice. Ora, d'accordo che in Italia stanno facendo pure questo, ma non mi pare corretto che fino a quando dalla Banca d'Italia è posseduta dalle singole banche, queste singole banche devono essere controllate dalla Banca d'Italia. La mia proposta è questa, che le singole banche cedano queste quote direttamente al Tesoro, che la Banca al Ministero dell'Economia, che la Banca d'Italia ritorna ad essere totalmente di proprietà pubblica, quindi indipendente dalle singole banche, per poter poi controllare in maniera indipendente, non in maniera che deve rispondere alle singole banche. Quindi questa è la proposta dell'Italia dei Valori. Dopodiché, siccome Tremonti ha detto dobbiamo darle a, c'è un proprio questo problema, insomma con la Banca d'Italia, io ho detto certo che fino a quando non si risolve questo problema è meglio un'entità terza rispetto a questo che la Banca d'Italia. Così. Senta, venendo all'attualità politica, ha visto la proposta della Lega sulla castrazione chimica? Io credo che su base volontaria, quando si ha a che fare con persone come quel malato di austriaco lì che ha distrutto la figlia, io credo che su base volontaria anche questa può essere una soluzione, che non è una forbice, è semplicemente un modello chimico affinché uno tra le tante soluzioni che può scegliere per evitare di essere recidivo ci sia anche questo. Certamente io dico che gli stupratori vanno condannati e condannati severamente, ma ovviamente nel rispetto alla legge, non è che li puoi violentare a loro volta in uno stato di diritto, in maniera volontaria. Anche se ripeto, anche se gli stupratori sono la peggiore categoria di persone. Visto che voi vi siete battuti, c'è stata tutta la vicenda della vigilanza RAI, ma lei, presidente della RAI, chi vorrebbe? Perché non si riesce a trovare nessuno. Ieri c'è stato anche Guglielmi, è stato bloccato. L'Italia dei Valori dal primo giorno ribadisce ancora oggi che non vuole il consiglio di amministrazione della RAI, perché così come è formulata la legge Gasparri prevede che il consiglio di amministrazione della RAI sia nominato dai partiti. Ogni partito pro quota si nota un consigliere e insieme, tutti insieme si notano un presidente di mediazione che deve fare soltanto da foglia di figo per quel che è la lottizzazione e la spartizione. E questa sarà la riforma a venire, però un presidente va fatto adesso. Bastava e basta ancora che il PD avesse un po' tirasse un po' fuori il petto e ritirasse i propri consiglieri di amministrazione della RAI, e in un giorno solo si può decidere che il consiglio di amministrazione venga abbattuto e che si dia a tutti i giornalisti RAI in assemblea la decisione di decidere chi deve essere il primo sindacale. Ecco la stoccatina al PD. La stoccatina al PD lei la fa sempre, non riesce. No, non è una stoccatina. Vede, il PD, io sto dicendo, ognuno fa la sua opposizione come meglio crede. Ritengo però che quando, come noi riteniamo e come anche il PD ritiene, in questo momento ci sia in pieno conflitto di interessi un governo che da una parte controlla le televisioni private, dall'altra mette le mani sulla televisione pubblica mettendo proprie persone, proprio addirittura ex dipendenti o politici trombati, riciclati e quant'altro, e il PD ci sia a coda cercando di nominare la sua quota, la sua parte, a me mi pare che questa sia una scostumanza dalla mia parte. Va bene, senta, per concludere, ripeto, noi l'abbiamo fatto ieri, qua c'era Mastella agli stessi microfoni, e io come l'avevo chiesto a Brunetta di bere un caffè con Podda e mi ha detto ma chi lo conosce Podda, a Mastella gli ho chiesto di bere un caffè con Prodi, ha detto assolutamente mai. Ma lei un caffè con Mastella lo beve o no? Ma guarda che Mastella, voglio dire, sono certo che a casa sua farà ottimi caffè, perché sai che a Napoli il caffè di Napoli è sempre il migliore, però ognuno si prende il caffè a casa sua. Ah vabbè, quindi anche lei no, insomma non riusciamo a far bere un caffè a nessuno con nessuno. E va bene, due cose veloci: Daniela Martani, la hostess col cappio, neanche questo nome. So chi è la sì, hostess. Sì, è certo, perché la sta per candidare forse. No, non lo sto per candidare, però voglio dire, è una persona che faceva la hostess e ha fatto valere dei suoi diritti, dopodiché ha scelto un'altra strada, criminalizzare una hostess per non prendere atto invece, scusi, siccome siamo in una radio importante, diciamolo, Alitalia è stata affossata non dalla hostess Martano, delle tante hostess che hanno portato avanti la compagnia, ma da una classe dirigente di amministratori che hanno portato il deficit in negozio all'azienda, che si sono preso un sacco di soldi per farsi gli affari propri e che hanno buttato adesso sull'astrico decine, qualche migliaia di persone. Però non la candida. Semmai abbia pazienza, semmai, torno a ripetere, la notizia che dobbiamo dare agli ascoltatori non è se Martano è candidato o non è candidato, e non la candido, ma né credo che lei voglia candidarsi, né io ho mai pensato di candidarsi, ma il problema è un altro. Parliamo invece di una Alitalia che ha tolto i soldi ai poveri per dargli ai speculatori, e che il governo ha fatto una scelta in cui ha regalato, ha indebitato lo Stato italiano di 2-3 miliardi di euro e ha messo in condizione ad un gruppo di amici di speculare sopra, un'operazione, diciamo così, a guadagno sicuro a danno della collettività e dei lavoratori. Va bene, questa è la sua posizione. Ovviamente la ringrazio, Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori, per essere stato con noi. Sono le 8:49 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Allora, insomma, sapete che la situazione in provincia di Ragusa, in particolare a Scicli, è una situazione difficile. Devo dire, ieri c'è stato un altro attacco molto duro nei confronti di una turista tedesca di 24 anni che è stata aggredita da un branco di cani e sostanzialmente è in situazioni davvero davvero difficili. Noi vogliamo tornare a parlare di questo tema. Tra l'altro voglio salutare il sindaco di Modica, Antonello Buscema. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Senta, la situazione è ovviamente difficile. Ci dica innanzitutto se ci sono dei cani ancora in libertà, insomma, dei cani pericolosi. Ma guardi, innanzitutto tengo a precisare che il comune di Modica in questa vicenda è parte offesa, parte lesa due volte: una perché abbiamo avuto un nostro piccolo concittadino che è stato vittima dell'aggressione, e due perché, diciamo, l'immagine della città è stata sconvolta da tutto questo che è successo in un territorio limitrofo al comune di Modica, in cui praticamente il comune di Modica non ha alcuna competenza. E detto questo, io ho immediatamente nel territorio limitrofo al comune di Scicli, sì, ieri fatto un'ordinanza con cui chiedevo di alle forze dell'ordine, alla protezione civile, di monitorare e di vigilare sul territorio per evitare che altra gente si avventurasse in quella zona, e poi ho chiesto anche ai servizi veterinari di sapere se la situazione era sotto controllo. Senta, le chiedo, sindaco, secondo lei i cani vanno abbattuti, questi cani vanno abbattuti? Allora, secondo me ci deve essere da parte degli organismi responsabili una dichiarazione che la situazione è sotto controllo. Se così non è, come fino ad ora non mi è stato detto ufficialmente, io ho fatto un'ordinanza perché i cani eventualmente siano abbattuti, perché non è possibile che, rispetto a una mia richiesta fatta ieri, io prima sono intervenuto preventivamente a tutela dei miei cittadini facendo, diciamo, monitorare la zona limitrofa al comune di Scicli, poi ho fatto una nota ai servizi veterinari chiedendo se appunto la situazione era sotto controllo, non mi è stata data nessuna risposta né dagli servizi veterinari né dagli altri organismi che io ho compulsato, per cui a quel punto ieri notte ho fatto un'ordinanza di abbattimento, perché qualcuno mi deve dire, il ministro, il governo mi deve dire che la situazione è sotto controllo. Allora, guardi, sindaco, visto che abbiamo raggiunto, secondo noi, abbiamo raggiunto il sottosegretario al welfare, Francesca Martini. Sottosegretario, buongiorno e ben ritrovata. Ce l'avamo sentiti sul tema dell'ordinanza. Allora, lei è quella che ha detto ieri, fermando tra l'altro qualcuno, dice già l'ordine di abbattimento, no, i cani non vanno abbattuti, vanno anestetizzati, vanno presi. Conferma che questa è la situazione? Perché purtroppo, insomma, la situazione è un po' grave, ecco, quello che... Guardi, io resto esterrefatta, perché io richiamo tutte le amministrazioni locali al principio della responsabilità, della conoscenza delle loro competenze istituzionali, attribuite peraltro da normative vigenti nel nostro paese da moltissimi anni. Io conosco la Sicilia e la situazione di degrado in cui purtroppo questo territorio è avversato in tutti questi anni in materia di gestione dei canili, gestione di un problema gravissimo come il randagismo, che è un problema di salute e di incolumità pubblica. In questo momento è scoppiato il bubbone, purtroppo io sono costernata da una situazione, anzi le mie condoglianze e il mio affetto e la mia vicinanza vanno a questa famiglia e senza dubbio a tutta la comunità di Modica, però devo anche richiamare gli amministratori locali a quelle che sono le loro specifiche responsabilità in materia, che sono attribuite dalla legge 281 del 91, che dice appunto che i comuni singoli associati provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono i rifugi per i cani. Se abbiamo cani vaganti inselvatichiti, questo è esattamente il frutto di una immobilità amministrativa rispetto alla gestione del problema del randagismo, che, come abbiamo visto, è un problema gravissimo. Anche se lì non si capisce, perché il tribunale ha detto non sono randaggi, erano affidati a una persona. Il tribunale ha detto noi non li abbiamo affidati con nessun decreto, erano di quella persona. Adesso, come al solito in Italia, non si capisce bene di chi è la colpa, insomma, di questo. Intanto c'è morto un bambino, è gravissima una turista, un altro bambino aggredito, sottosegretario. Cioè, sì, di... uno scarico di responsabilità. Posso parlare? Sì, sì. Grazie. c'è uno scarico di responsabilità inammissibile. Quello che resta come un fatto gravissimo è diciamo, il dato oggettivo che nel nostro paese si possa morire come nel terzo mondo, e soprattutto un bambino che rappresenta la fragilità in assoluto, un bambino che giocava, che stava nel proprio territorio, per azzannamento da cani. E questo credo che sia un dato di fatto che richiama a un'assunzione davvero importante di responsabilità, che devo dire è stata presa in maniera assolutamente coraggiosa, assunta coraggiosamente dall'assessore alla sanità della regione siciliana, che peraltro è un magistrato, quindi ben conosce le leggi, come dottor Massimo Russo, che ha in contatto con me già dalla giornata di ieri stabilito tutta una serie di azioni da intraprendere per far fronte all'emergenza, ma anche alla programmazione. E poi, ecco, se devo citare il comune di Modica, io devo anche dire che i miei uffici mi hanno evidenziato il fatto che a questo comune era stato attribuito un finanziamento proprio destinato a questa tipologia di interventi, sì, per che non è stato, la cui istruttoria non è stata completata, e quindi il finanziamento non è stato possibile erogarlo. Quindi capite che purtroppo il caso è gravissimo, però è un'emergenza che dobbiamo affrontare davvero insieme. Allora, sottosegretario, io mi devo fermare, tra l'altro siete arrivati con un paio di minuti di ritardo, questo non mi ha permesso di fare ancora un paio di domande. So che su questa vicenda del canile di Modica la posizione del comune di Modica è vero, noi avevamo fatto un progetto da 1 milione di euro, c'erano a disposizione 50.000 euro, con 50.000 euro non si fa tanta strada, ma prometto che torneremo su questo tema. Ci dobbiamo fermare, tra poco Giuliano Ferrara con Parliamo con l'Elefante. Non mi resta solo che ringraziare tutti e ci ritroviamo domattina.